cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Dov'è, dov'è il capostazione? Sto viaggiando senza biglietto in una direzione. È lei che prende la mia mano e mi accompagna in questo lungo viaggio, andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore. L'ora è facile guardare in faccia la trasformazione. Il mio corpo che cambia nella forma e nel colore. È in trasformazione. È una strana sensazione. In un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia. E cambia. E cambia. Sensazione, è come un treno che mi passa dentro senza stazione. Tu dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. In un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia. E cambia. E cambia. E cambia. E cambia. Ok, la prossima è una canzone che ci teniamo a dedicare a tutti i profughi che dal Kosovo stanno scappando ormai in un esodo a 360 gradi in ogni parte del mondo, un po' fuggitivi, un po' deportati, e a tutti i fuggitivi che sulla faccia della terra sono vittime di tutte le guerre.